GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In stato d'arresto per gravi indizi di colpevolezza il presunto assassino di Ezechiele Mendoza Gutierrez, l'uomo di 31 anni, italiano di origini dominicane, ucciso nei pressi di un locale dopo la festa di Capodanno a Udine. L'arrestato è un cittadino dominicano di 34 anni, Anderson Vasquez Dipres. È minimo in Friuli Venezia Giulia l'impatto della norma che consente ai vicepresidi degli istituti più grandi di svolgere solo le mansioni dirigenziali, senza occuparsi anche della didattica in classe. Ne potranno beneficiare solo 6 vicari. Polveri sottili nel 2023 in lieve aumento rispetto all'anno prima, i valori maggiori riscontrati verso il confine col Veneto e sulla bassa pianura. L'ARPA ha diffuso il rapporto annuale sulla qualità dell'aria. Per quanto riguarda l'ozono, caratteristico del periodo estivo, superati i limiti in diverse stazioni della pianura e della costa. Un incremento notevole della capacità di interazione sociale, sono positivi i riscontri dell'ipoterapia nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Uno dei centri selezionati per un progetto nazionale di ricerca è a Porcia. Un conto alla rovescia con 24 ore di ritardo. Il Capodanno di Udine e di Gorizia è stato festeggiato la sera dopo, ma con lo stesso entusiasmo del giorno prima. Folla e musica ieri sera in piazza Primo Maggio nel capoluogo friulano e in piazza Vittoria nel capoluogo del Friuli orientale. Quando la tua vicina di casa diventa First Lady è il sottotitolo di Melania, il documentario realizzato dalla regista Yuri Gruden sulla moglie dell'ex presidente Trump, originaria di un piccolo paese della Slovenia. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lara Zani e Antonio Cagliazza. Continuano le indagini sull'omicidio di Capodanno. Ieri sera un uomo sospettato del delitto, un 34enne residente a Udine e cittadino dominicano, è stato rintracciato nel Tarvisiano e arrestato. Il provvedimento dovrà ora essere convalidato dal GIP. E oggi deserto il laghetto Alcione, locale alla periferia sud di Udine dove si è consumato l'omicidio di Capodanno. Vittima Ezechiele Mendoza Gutierrez, ucciso con un fendente alla gola al mattino, probabilmente un coccio di bottiglia, dopo una notte di festeggiamenti. Lucchetto al cancello e un cartello che indica locale sottoposto a sequestro penale. La necessità è quella di preservare la scena del delitto fino alla fine degli accertamenti. Intanto nei confronti del dominicano Anderson Vasquez Dipres, detto Andy, sospettato del delitto e rintracciato ieri pomeriggio al confine con l'Austria, la procura di Udine ha disposto l'arresto, che dovrà essere convalidato dal GIP. Il presunto omicida si trova per adesso in carcere nel capoluogo friulano. Regna il silenzio anche a Bressa, frazione di Campoformido, dove Ezechiele viveva con la madre e l'aiutava nel bed and breakfast di famiglia. Incredulo, uno dei vicini di casa. La vittima lavorava alle acciaierie Bertoli Safau, era nato a San Daniele del Friuli nel 1992, frequentava la comunità dominicana locale, circa 350 persone a Udine, comunità sbalordita per quanto successo, dominicana colei che gestisce il locale, che preferisce non rilasciare dichiarazioni, e dominicano l'uomo di 34 anni, quasi coetaneo della vittima, accusato del delitto in carcere. Arelis Porcino, parrucchiera dominicana Udine, conoscente di entrambi. Siamo tutti sconvolti perché è una cosa che proprio ci ha lasciato distrutti a tutti, anche pensando nella loro famiglia, perché comunque sono 3 famiglie distrutte, perché anche la padrona dell'ambiente sarà distrutta e è una brutta cosa che ha successo per tutti noi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel decreto mille proroghe del governo anche una norma che intende migliorare l'efficienza della macchina amministrativa degli istituti scolastici più grandi. Prevede infatti la possibilità per i vicari di occuparsi solo delle questioni dirigenziali e non anche della didattica in classe. In regione però saranno pochi quelli che potranno beneficiarne. Gli accorpamenti delle scuole sono confermati, ma alcuni vicepresidi saranno sgravati dei compiti di docenza per supportare meglio il lavoro dei dirigenti scolastici. È un cambiamento minimo per il sistema scolastico della regione, quello portato dalle disposizioni contenute nel decreto mille proroghe approvato dal governo, in cui è stato inserito un meccanismo di flessibilità sugli accorpamenti per venire incontro alle regioni che devono ancora approvare il proprio piano sul dimensionamento scolastico per il triennio 2024-2027. Per un solo anno scolastico, quello 2024-2027, 2025. Potranno infatti aumentare del 2,5% il numero di scuole dotate di una dirigenza autonoma rispetto al numero fissato dal Ministero dell'Istruzione. In Friuli Venezia Giulia ciò significherebbe la possibilità teorica di mantenere 4 presidi in più e quindi 4 scuole autonome in più. La scelta della giunta regionale tuttavia sarà diversa, come spiega l'assessore all'istruzione Rosolen. Dal momento che il piano sul dimensionamento è già stato varato, i posti disponibili non saranno assegnati a nuovi dirigenti scolastici. Resta quindi confermato l'accorpamento di 10 presidenze. Saranno invece concessi 6 esoneri a favore dei vicari. Gli insegnanti che oggi cumulano ruoli di docenza e amministrativi come vice dirigenti per un anno potranno svolgere solo quest'ultimo compito. Gli esoneri saranno 6, ha detto Rosolen, 2 totali, che riguarderanno i più grandi tra gli istituti accorpati, e 4 parziali, tutti finanziati con le risorse già messe a disposizione dalla Regione nell'ambito del piano di dimensionamento. La decisione definitiva sulle scuole che beneficeranno del provvedimento arriverà entro la scadenza del 5 gennaio. Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il 2023 è stato un buon anno per quanto riguarda la qualità dell'aria e quanto si legge nel report sulla qualità dell'aria stilato dall'ARPA del Friuli Venezia Giulia. L'anno appena concluso conferma che le zone con migliori indici di qualità sono quelle orientali della regione, la fascia di costa e la montagna. Sentiamo l'intervista a Fulvio Stell dell'ARPA. Con la fine del 2023 abbiamo i dati definitivi per quanto riguarda la qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia e l'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ha già preparato un primo piccolo rapporto per la stampa in cui sostanzialmente si conferma la buona qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia con qualche punto di attenzione. Allora chiediamo a Fulvio Stell qual è la situazione per quanto riguarda appunto la qualità dell'aria. Fulvio Stell ovviamente dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Sì, la situazione nel corso del 2023 è stata nel complesso buona, anche se rimangono alcune criticità per quanto riguarda le polveri, in particolare ai confini con il Veneto, dove in alcuni punti abbiamo superato proprio quella che è la soglia normativa annuale. Valori un po' più alti di polverosità si osservano anche sulla bassa pianura friulana, mentre decisamente migliore la situazione nel Triestino, nel Goriziano e anche in montagna. Ecco. Per quanto riguarda l'ozono, invece, nel 2023 l'anno è stato decisamente migliore rispetto al 2022, anche perché nel 2023 abbiamo avuto una minore insolazione e comunque anche il 2023 si inserisce in una tendenza che stiamo monitorando da un po' di tempo per una graduale riduzione dell'ozono, in particolare per i valori più elevati. In leggera controtendenza invece il benzoapirene. Sì, nel 2022 abbiamo osservato i primi superamenti del benzoapirene, in particolare nel Pordenonese, al confine con il Veneto, e in alcune vallate alpine. E i primi dati, le prime evidenze del 2023 sembrano confermare questi valori relativamente elevati di benzoapirene e quindi sarà importante anche lavorare per riportare al di sotto della soglia di legge questo inquinante nelle zone in cui è stato osservato il superamento. Palmanova, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Associazione Friulana Donatori di Sangue di Pordenone ha superato nel 2023 l'obiettivo che si era posta delle 10.000 donazioni, con un aumento dell'8% rispetto alle donazioni del 2022. Registrata inoltre l'entrata di oltre 900 nuovi donatori, più 17%. La provincia di Pordenone si conferma una realtà disponibile e generosa nella donazione del sangue, superando le 10.000 donazioni nel 2023, con un incremento dell'8% rispetto al 2022. Forte delle 39 sezioni, l'Associazione Friulana Donatori di Sangue di Pordenone registra l'entrata di oltre 900 nuovi donatori, più 17%, consolidando una costante e progressiva crescita del sodalizio. Un risultato grazie anche all'attività di chiamata degli informatori associativi che indirizzano i nuovi donatori nell'accoglienza, collaborando con il personale infermieristico e trasfusionale. Mauro Verardo, presidente dell'Associazione Friulana Donatori Sangue di Pordenone. Un ottimo risultato conseguito grazie al lavoro svolto dai 39 presidenti di sezione e anche i 500 volontari che collaborano all'interno dell'associazione. Questo grazie all'attività di chiamata, ma soprattutto all'attività di promozione e sensibilizzazione alla donazione che viene effettuata nelle piazze durante le varie manifestazioni ed eventi che ci sono. Incide del 13% a livello regionale la generosità dei pordenonesi nel donare sangue nei 5 centri trasfusionali della provincia. La regione Friuli Venezia Giulia è sicuramente una regione virtuosa, proprio perché questa cultura della donazione del sangue viene tramandata dai genitori ai propri figli, ma soprattutto è merito anche dell'attività che viene fatta di promozione nelle scuole. Un'attività di volontariato fondamentale per salvare vite umane. È importante donare il sangue perché questo permette di salvare le vite di persone che hanno bisogno, chi ha avuto un incidente, chi deve effettuare degli interventi chirurgici, ma ci sono anche tanti malati cronici che hanno bisogno anche di cosiddetti farmaci plasma derivati, che sono dei salvavita. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un progetto nazionale sta cercando di evidenziare le potenzialità dell'ippoterapia nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico. 5 i centri coinvolti, uno è quello di rieducazione equestre, anche noi a cavallo, di Porcia. Lo abbiamo visitato. C'è stato un boom nella sua persona, è cresciuto tantissimo, ha maturato tante competenze perché non è solamente la situazione con i cavalli, cioè l'accudimento, è l'accudimento e tante altre attività importanti che lo hanno fatto crescere da un punto di vista cognitivo. Emanuele è uno dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico che frequentano il centro di rieducazione equestre, anche noi a cavallo, di Porcia. Realtà friulana selezionata per un importante progetto di ricerca nazionale con l'obiettivo di dimostrare l'efficacia dell'ippoterapia nell'autismo. Siamo stati selezionati tra 5 maneggi in Italia per questo progetto di ricerca Riding the Blue sui disturbi dello spettro autistico e in particolare nel nostro centro ciò che abbiamo monitorato molto importante con bambini che avevano vari livelli di disturbo all'interno dello spettro autistico è stato un incremento della capacità di interazione sociale che è fondamentale insomma se pensiamo a questi bambini. Il centro che è anche una struttura sanitaria accreditata è specializzato per gli interventi assistiti con i cavalli ed è attivo da oltre 35 anni. Nel passato c'erano molti più utenti di categorie diverse, avevamo ragazzi down, avevamo ragazzi con problemi fisici, con emiparesi, invece negli ultimi anni è aumentato le richieste di bambini all'interno dello spettro autistico e tra l'altro bambini anche molto piccoli. In questo momento oltre il 60% dei nostri utenti sono bimbi piccoli all'interno dello spettro autistico. 3.600 sedute di terapia e 250 utenti l'anno che arrivano qui con le loro famiglie accolti da un'equipe multidisciplinare specializzata assieme a un gruppo di volontari. Noi siamo convinti in associazione che l'accoglienza sia un aspetto molto importante non solo per i pazienti che frequentano l'associazione ma anche per le persone, i familiari che vivono quotidianamente con loro. Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, cielo da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 9 gradi e 5 decimi, a Gorizia 8 gradi, a Udine 7, Pordenone 5, a Tolmezzo 3 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 3 gradi, Piancavallo e Tarvisio 1, Sappada meno 6 gradi, sul Monte Zoncolano e sul Monte Lussari meno 3 gradi, a Grado 7 gradi, a Lignano 6 gradi e 5 decimi. Ed ecco le previsioni a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Oggi cielo da variabile a nuvoloso, in genere con più nubi a est e più schiarite probabilmente sulle Alpi, sui monti verso il Cadore e nel Tarvisiano. Dalla sera a notte possibile qualche debole precipitazione. Ieri sera a Udine, a Gorizia, le feste di Capodanno che erano state rinviate a causa delle previsioni che annunciavano maltempo. 24 ore di ritardo, ma il medesimo entusiasmo. 4, 3, 2, 1! Non ci si fa mancare niente, nemmeno il conto alla rovescia, sia pure con 24 ore di ritardo o poco meno, visto che la cosa viene anticipata alle 10:30 di sera. Udine non rinuncia alla festa di Capodanno. Rimandato per il rischio maltempo, lo spettacolo in piazza va comunque in scena. E la gente, anche se il giorno dopo si lavora, risponde con passione e voglia di divertirsi. Piazza Primo Maggio poteva essere più piena a San Silvestro, ovviamente, ma la risposta c'è. La musica del palco fa ballare la gente come da copione e dopo il countdown ci sono anche i fuochi a basso impatto sonoro in una serata dove i botti privati rimanevano vietati. La scelta di Udine fa il paio con quella di Gorizia in questo 32 dicembre, per citare un vecchio film di Luciano De Crescenzo, che vuole essere comunque la prima festa dell'anno nuovo. Lo scenario nel capoluogo isontino è Piazza Vittoria, il brand organizzatore è lo stesso e quindi le immagini si assomigliano parecchio. Musica dal palco, sia dal vivo sia con i DJ, gente che balla e si diverte, unica differenza, il conto alla rovescia che a Gorizia non c'è stato, non sono invece mancati i fuochi artificiali. Per il Capodanno ritardato qualche critica, politica e via social, non è comunque mancata a sua volta, nell'uno e nell'altro caso. E le due maggioranze di segno opposto difendono la scelta in entrambi i casi con le ragioni della sicurezza. E così, oltre alla prima festa, è servita anche la prima polemica del 2024. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Melania Trump, ossia la slovena più famosa nel mondo, alla ex first lady statunitense, che nel prossimo novembre potrebbe anche rientrare alla Casa Bianca, è dedicato un documentario firmato dal regista Yuri Gruden. Nel suo paese natale, Sevnica, è ovviamente un mito, anche se le rimproverano di parlare poco della sua terra d'origine. Quando la tua vicina di casa diventa First Lady, questo è il sottotitolo di Melania, documentario firmato da Yuri Gruden, regista triestino con indirizzo a Lubiana. Melania Trump, Knaus Danubile, è sicuramente la slovena più famosa nel mondo. L'evento dell'elezione di Trump è stata una cosa unica anche per la Slovenia, perché avere la First Lady con origini slovene sicuramente non si ripeterà, e se si ripeterà proprio con Trump, ossia con lei. Gruden ha raccolto le testimonianze dei vicini di casa di Melania, nel paese natio di Sevnica, dei fotografi con cui ha iniziato la carriera di modella in Slovenia, nella ex Jugoslavia e poi a Milano e Parigi, e infine i testimoni del periodo americano. Parlare di Melania nella sua città natale, Sevnica, tutti la vedono come una figura assolutamente positiva, perché venire già da Sevnica a Lubiana c'è un bel po' di strada, poi arrivare ad essere la moglie del presidente americano è un'altra cosa, ancora più difficile. Ma devo dire che c'è abbastanza, forse un po' di risentimento qui. Dicono: perché Melania non parla più della Slovenia? Perché non parla di noi? Perché non viene a trovarci? Sicuramente è abbastanza singolare come First Lady, è molto riservata e vuole tenersi questa riservatezza tutta per sé e per la sua famiglia. Alla presentazione del documentario Melania erano presenti anche i genitori della ex First Lady statunitense. I genitori di Melania Trump sono riservati come Melania, non vogliono avere niente a che fare con i media, sia sloveni che internazionali, e si tengono molto chiusi, ma ero molto felice comunque che sono venuti alla prima. Melania Trump non è un personaggio popolare e sicuramente non vuole esserlo. Melania è una persona, sia dagli anni scolastici in poi, molto riservata, però molto ben focalizzata ai suoi obiettivi, ai suoi traguardi, e quando si mette in testa dei traguardi di solito li raggiunge. Certi dicono che con Donald sono abbastanza simili come carattere. Walter Scherk, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora lo sport con lo sci alpino. Saranno 6 le squadre nazionali femminili di sci alpino che dal 3 al 5 gennaio si alleneranno sullo Zoncolan a Tarvisio e Sella Nevea. L'Italia vedrà impegnate sulla pista 1 dello Zoncolan Federica Brignone, leader in classifica della Coppa del Mondo di Gigante, e Marta Bassino, altra punta dello sci azzurro tra le porte larghe. Assieme a loro proverà la velocità pure la tarvisiana Lara Della Mea dopo il recente ritorno in Coppa del Mondo di slalom gigante. Sempre nella località carnica scieranno anche le atlete della nazionale svedese che per i prossimi 2 anni, fino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, stabiliranno il loro quartier generale per gli allenamenti proprio sullo Zoncolan. Tra Tarvisio e Sella Nevea ci saranno invece le slalomiste svizzere, francesi, croate e slovene. Un annuncio prima di chiudere: concerto inaugurale dell'attività musicale classica 2024 al Duomo di Muggia col concerto per i Re Magi che si svolgerà alle 17, in programma musiche dedicate al periodo barocco. L'assistenza tecnica per questa edizione è stata curata da Carlo Morello e da Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Laura Sarasini.